La politica alla prova. La politica alla prova, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta, tanti temi del nostro appuntamento, le stime macroeconomiche viste al ribasso dal governo Letta, Letta punta il dito sulle fibrillazioni politiche delle ultime settimane ed ancora lo scontro tra PD e PDL sulle priorità per il paese. Il Presidente della Repubblica Napolitano auspica toni più bassi tra mondo politico e magistratura, Berlusconi lancia Forza Italia 2.0, primo giorno dell'assemblea PD ed infine il botta e risposta tra Movimento 5 Stelle e la Presidente della Camera Boldrini. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS. Partiamo allora dalle stime su crescita, deficit e PIL rivista al ribasso da Palazzo Chigi nel documento di economia e finanza. Non entriamo nel dettaglio, lo farà Focus Economia tra breve. A noi interessa la spiegazione data dal Premier Letta che fa capire tutta colpa delle polemiche nella maggioranza. Sentiamo Letta. Non siamo in grado oggi di scrivere 3%, ma dobbiamo scrivere, per essere seri, 3,1%, è figlio del fatto che i primi mesi di vita del governo hanno avuto una stabilità che non ha avuto seguito nelle ultime settimane, e questa instabilità pesa. Sono convinto che siano tutti consapevoli di questo, e questo è il messaggio politico che vogliamo lanciare. Noi siamo determinatissimi a superare questa instabilità e a superare gli scogli che da questa derivano. E a proposito di polemiche nella maggioranza, ci sono quelle su IMU ed IVA. In questi giorni si parla soprattutto della seconda, perché in mancanza di interventi vi sarà un aumento dell'aliquota dal 1 ottobre. Sentiamo allora le ragioni di PDL e PD nelle parole rispettivamente di Brunetta e Colaninno. L'Europa non c'entra. L'IMU sulla prima casa e terreni agricoli non sarà pagata per tutto il 2013 e l'IVA, l'aumento dell'IVA di un punto, non scatterà ad ottobre. Questi erano e sono gli impegni di governo e così sarà. Naturalmente non si può tornare indietro sull'IMU, dobbiamo rifinanziare la cassa integrazione, dare risorse per gli investimenti alle aziende e all'occupazione. Noi chiediamo al governo di lavorare, e in questo lo sosterremo, per gestire al meglio le risorse e tener conto delle esigenze complessive. Queste dunque le parole di Brunetta, Popolo della Libertà e Colaninno, Partito Democratico, sulle priorità in questo momento economiche per il Paese. Lo abbiamo ascoltato, PDL che spinge di più per IMU ed IVA da una parte, il PD più per interventi a favore dell'occupazione ed ammortizzatori sociali. Il problema è sempre lo stesso: non ci sono i soldi. Cambiamo argomento. Intervento oggi del Presidente della Repubblica Napolitano sulla giustizia e sul rapporto tra politica e magistratura. Ascoltiamo Napolitano. Non c'è nulla di più impegnativo e delicato che amministrare giustizia, garantire quella rigorosa osservanza delle leggi, quel severo controllo di legalità che rappresentano, come ho avuto più volte occasione di ribadire, un imperativo assoluto per la salute della Repubblica. Anche la considerazione della peculiarità di questa funzione e l'inequivoco rispetto per la magistratura che ne è investita sono invece stati e sono spesso travolti nella spirale di contrapposizioni tra politica e giustizia che da troppi anni imperversa nel nostro Paese. Operare perché la politica e la giustizia, e ancor più le istanze rappresentative dell'una e dell'altra, cessino, dichiarai dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura già nel febbraio 2008, di concepirsi ed esprimersi come mondi ostili, guidati dal sospetto reciproco anziché uniti da una comune responsabilità istituzionale. L'equilibrio, la sobrietà e il riserbo, l'assoluta imparzialità e il senso della misura e del limite, che sono il miglior presidio dell'autorità e dell'indipendenza del magistrato. Ne dovrebbe scaturire anche tra i magistrati un'attitudine meno difensiva e più propositiva rispetto al discorso sulle riforme, di cui la giustizia ha indubbio bisogno da tempo e che sono pienamente collocabili nel quadro dei principi della Costituzione repubblicana. E queste le parole di Napolitano nel rapporto tra magistratura e politica. Tanti gli sms al 349-238-6666, l'ultimo si rivolge proprio a Napolitano, è un sms duro nei confronti del capo dello Stato, è stato uno sbaglio mettere Berlusconi al governo scontentando l'Italia, il capo dello Stato vada in pensione, e tra parentesi d'oro. Ed ancora solo alibi da Letta, non si vuole tagliare la spesa pubblica, Letta non ci prenda in giro, il 3,1% è figlio dei mancati tagli alla spesa pubblica, scrive Marco. La questione è che l'Europa vuole uno Stato patrimonializzato e cittadini indebitati come nel resto d'Europa. Questi alcuni degli sms che ci avete mandato. Restiamo sulle forze politiche, tempo di restyling all'interno dei due principali partiti italiani. Berlusconi dice addio al Popolo della Libertà e rilancia Forza Italia, dall'altra parte due giorni di lavoro dell'Assemblea del Partito Democratico che dovranno portare quindi ad indicare regole e date del prossimo congresso. Partiamo quindi da Forza Italia, sentiamo il perché del cambiamento da PDL a Forza Italia proprio dalle parole di Silvio Berlusconi. L'acronimo PDL non comunica, non trasmette emozione, quindi credo che questo sia stato un motivo che da due anni ci ronza nelle orecchie e che prima o poi doveva anche spingerci nella direzione di un ritorno al futuro, cioè di questa nuova Forza Italia. Ma nuova Forza Italia nelle parole di Berlusconi e quindi poi il Partito Democratico, l'auspicio per i lavori dell'Assemblea PD nell'intervento della De Micheli. Oggi comincia il percorso congressuale del Partito Democratico. Noi sosteniamo convintamente questo governo. Noi dobbiamo affrontare l'emergenza del lavoro e delle imprese in questo Paese. Anche il dibattito del congresso del Partito Democratico sarà utile per rafforzare il sostegno al governo e per dare nuovo slancio e nuove idee per affrontare questa emergenza. E queste le abbiamo ascoltate, prima le parole di Berlusconi, poi della De Micheli del Partito Democratico. Altra polemica di cui si parla ancora oggi, quella del braccio di ferro tra Movimento 5 Stelle e la Presidente della Camera Boldrini. Ricordiamo l'antefatto, Grillo ieri ha detto la Boldrini è un oggetto di arredamento del potere, non è stata eletta ma nominata da Vendola. La stessa Boldrini ha replicato, quello che viene dedicato da alcuni soggetti all'ingiuria e all'insulto gratuito è davvero tempo perso. Allora, su questo tema dell'attacco di Movimento 5 Stelle alla Boldrini abbiamo avvicinato proprio una parlamentare del Movimento 5 Stelle, Edera Spadoni, e ci spiega un pochino il perché di questa polemica nei confronti della Presidente della Camera. Sentiamo. E francamente io personalmente non me l'aspettavo. Io faccio una premessa, sono la prima firmataria della ratifica della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, e il punto non è aver attaccato la Presidente Boldrini in quanto donna, ma averla attaccata in quanto Presidente della Camera, che non ha più volte rispettato il suo ruolo di super partes. Noi crediamo vivamente che se un presidente non si sente adatto a ricoprire il ruolo, che ripeto è un ruolo super partes, dovrebbe vedere che tipo di alternative ci possono essere, perché comunque la presidente in molti casi ha mostrato apertamente di non essere super partes. Penso alla volta che ha chiuso il microfono Alessandro Di Battista, perché Alessandro aveva, secondo lei, offeso, aveva avuto parole di offesa. Non è stato così. Ecco, le vostre critiche, mi pare di capire, sarebbero state le stesse anche se il presidente fosse stato un uomo o un'altra persona comunque diversa dalla Boldrini. Assolutamente sì, ripeto, non è l'attacco nei confronti della donna Boldrini, è un attacco nei confronti della Presidente della Camera Boldrini, che non riesce a mantenere un ruolo istituzionale super partes come invece dovrebbe fare. E per le altre forze politiche è all'altezza e per voi no? Noi lo vediamo in modo molto chiaro che c'è una netta differenziazione quando per esempio parliamo noi, quando chiediamo la parola molto spesso veniamo ignorati e quando ci viene tolta la parola, quindi i fatti dal nostro punto di vista dimostrano questo. questi i perché del Movimento 5 Stelle nella polemica nei confronti della Presidente della Camera Boldrini. Speriamo di avere nelle prossime settimane proprio la Presidente della Camera e sentire la sua versione. Chiudo brevemente con alcuni sms, ma di che parla Napolitano lo sa perfettamente che il problema non sono i giudici. Vergogna, non capisco i partiti, qui è tutto nuovo ma io di nuovo ci vedo ben poco, scrive un altro ascoltatore. Per la politica la prova è tutto, un saluto da Vincenzo Miglietta.